أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا معه، اللهم احشرنا معه وتحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى continuiamo il nostro discorso con l'amato, il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E come dice un grande sapiente dell'Islam, che Allah lo dà misericordia, inshallah, ho imparato anch'io questa frase, questa bella frase, e un onore il fatto che uno parla o studia la vita, la sira, la sira, la storia del suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un onore. E abbiamo visto la settimana scorsa che Allah azza wa jalla ha mandato Muhammad alayhi salatu wassalam per noi come modello. Cosa vuol dire il modello? Il modello è quello da seguire. Il modello è quello che in alto noi cerchiamo di avvicinare. Abbiamo visto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cosa dice lui? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Il mio Signore che mi ha educato. Mi ha educato su il miglior modo che c'è. Quindi quello che ha educato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chi era? Allah l'Altissimo subhanahu wa ta'ala. Quindi ha educato Muhammad alaihi salatu wassalam su tutte le grandi qualità, le grandi qualità. E noi, alhamdulillah rabbil alamin, abbiamo i hadith che descrivono le qualità, le caratteri, la vita in modo molto preciso del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbiamo qua ad esempio un hadith, un lungo hadith, che diceva prima di tutto il profeta sallallahu alaihi wasallam era uno che passa il suo sguardo. E questa è una educazione in sé. Oggi tanta gente non hanno l'educazione del sguardo. Manca a tanta gente l'educazione come guarda. C'è quelli che guardano con invidia, giusto o no? C'è quelli che guardano con sguardo aggressivo, giusto o no? C'è quelli che guardano con sguardo di superiorità, di orgoglio. C'è quelli che guardano l'altra gente un sguardo di mancanza di rispetto. C'è tutti questi. Se noi parliamo nella comunicazione visuale, abbiamo tutte queste categorie di sbagli, che sono mancanza di educazione. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha fatto imparare, subhanallah. Per questo Allah parla nel Corano. Cosa dice Allah nel Corano? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورِ. Subhanallah ta'ala. Prima che arrivano tanti scienziati oggi che parlano della comunicazione visuale, guardate, il Corano ha parlato di questo. Allah l'Altissimo sa molto bene, conosce sguardo, possiamo dire, quello che puro, quello che di un tradimento, un sguardo di tradimento, un sguardo di tradimento, Allah lo sa, e sa anche quello che è nascosto nei cuori. Quindi lo sguardo è una cosa che è molto importante. Tanta gente oggi anche ti mangiano con i loro sguardi. C'è questo. Questo era anche nel Jahiliya, nel periodo pre-islamico. Abbiamo nel Corano la storia di quelli che sono entrati alla casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prima sono arrivati con un mondo molto volgario. Chiamavano il profeta da fuori e lo chiedono chi esce per loro. Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun. Il Corano ha parlato di questo perché si tratta di un comportamento. Gente che non sono educati sono arrivati dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chiamarlo con una voce molto alta, mancanza di rispetto, niente di educazione, l'hanno minacciato dicendo: vieni, esci per noi, se tu non esci noi siamo in grado di insultarti e di criticarti. Poi cosa c'è altro? Sono entrati? Cosa fanno, come certi fanno anche oggi? A'udhu billah. Questa mancanza di educazione. Sono andati a vedere nel piatto, nella cucina, cosa hai preparato. Aprono, guardano, non rispettano, non ci sono limiti. Alhamdulillah, è arrivato l'Islam, ha tolto questo. E noi abbiamo l'esempio che il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suo sguardo era un sguardo molto educato, rispettava. Perché lo sguardo cosa c'è dietro? C'è tutta una cultura, scusate fratelli, che mi permetto di spiegare questo. C'è la cultura, uno rispetta le limiti, l'intimità degli altri. Noi tutti quando usciamo, uno mangia da in un ristorante, giusto o non giusto, noi siamo tutti disturbati quando uno comincia a guardarti e vuol vedere cosa stai mangiando. Questo mancanza di rispetto, giusto o non giusto, questo è inaccettabile, nessuno può accettarlo, perché si chiama una violazione questo, giusto Abu Ahmed, no? Una violazione. Una violazione alla tua persona, una violazione alla tua intimità. Quindi l'Islam ha parlato tanto di questo, di nazar. Non solo l'Islam ha parlato di questo, il Corano ha parlato di questo, ma noi abbiamo cosa abbiamo? Abbiamo il modello. Come era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam يغض الطرف فلا يتبع نظره أشياء. Non seguivi le cose, seguire le persone con un sguardo è una violazione, una mancanza di rispetto, una violazione per la libertà e per la personalità degli altri. E questo non è accettato nell'Islam. Quelli che vogliono sapere, quelli che guardano le persone da piedi a testa, quelli che ti guardano cosa, come il tuo vestito, quelli che ti guardano cosa c'è nella tua borsa, quelli che guardano cosa c'è nel tuo carrello, che spesa ha fatto. Tutto per questo è sbagliato. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam, abbiamo l'esempio adesso, non seguiva mai uno con il suo sguardo. Abbiamo imparato questo? Una, due. وَكَانَ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَ. Questa è una seconda qualità nel suo sguardo. Guardava e non fissava mai il suo sguardo su qualcuno o su qualcosa. Sempre un sguardo di passaggio. Subhanallah. Così era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Uno che fissa il suo sguardo, a'udhu billah. E da qua vengono tanti tanti problemi. Il malocchio, il buono, non lo so cosa c'è. Tutte queste cose sono fuori dell'educazione del musulmano. Il musulmano che vuol seguire il suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cosa impara dal suo profeta? Impara che il suo profeta alayhi salatu wassalam, il suo sguardo era un sguardo sempre di passaggio, qualcosa di dolce. Come è brutto quando uno ti guarda e fissa il sguardo. Tanti lo fanno. Non parliamo adesso di quelli che guardano le donne, quello che ti guarda la tua sorella, quello che guarda la tua mamma, quello che ti guarda la tua figlia, quello che guarda, non lo so. Non parliamo di questo. Questo è tutto un altro grande discorso, questo. Di una malattia, di un zinà, questo. Si chiama questo l'adulterio degli occhi, si chiama nell'Islam. L'adulterio, c'è l'adulterio fatto nel rapporto haram, c'è l'adulterio che è fatto con cosa? Con gli occhi, con lo sguardo. Zina al-ayn. È haram. E qua abbiamo il modello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non fissava mai il suo sguardo. فلا يحملق الى نظر non fissava mai quanto guardava alayhi as-salatu was-salam. Questa è un'altra confermazione nel hadith. ونظره الى الارض اطول من نظره الى السماء. Suo sguardo verso la terra, verso il basso, era più del suo sguardo verso l'alto. Questo anche era una educazione, una qualità del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oggi abbiamo cosa abbiamo? Abbiamo delle persone che anche non basta gli occhi, devono comprare come si chiamano? Gemelle. Cannocchiali. Binocchio. Per guardare lontano, per guardare tutto bene, chiaro. Per guardare gli altri, per controllare gli altri, per entrare nelle case degli altri, per non lo so cosa fare con gli altri. Tante persone adesso sono malate di questi. Guardiamo cos'è, come era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guardava più la terra, guardava più verso giù. E questa è una, in se stessa questa, di una educazione. Noi stiamo parlando adesso di educazione. Queste sono delle qualità che rendono una persona educata. Questi sono i parametri. I parametri, perché sennò noi entriamo in un discorso che non finisce mai. Secondo quei parametri noi dobbiamo essere educati. Per il musulmano è chiaro. Noi abbiamo parametri chiari, fissi. Corano, che porta gli principi, porta gli ordini, porta le indicazioni. E abbiamo chi? Abbiamo il modello reale, reale, che era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non andiamo a guardare gli altri cataloghi. Lo sguardo deve essere così. Uno quanto parla deve essere così. Ci sono tanti libri, ci sono tante scuole, ci sono tanti insegnamenti, però i migliori per noi musulmani che c'è sono questi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, se uno studia bene, segue bene, vedi come era Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, non ce l'ho parole da dire. Era il tutto, era il top. Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto da lui il perfetto, alayhi assalatu wassalam. E noi non stiamo parlando del vuoto, stiamo parlando di cose pratiche. Non è che il Corano ha parlato di vieti di abbassare lo sguardo e poi non abbiamo nulla. Abbiamo qua. Abbiamo qua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, come lui ha messo in pratica quegli ordini che sono in Surat Nur, che sono in Surat Ahzab. Allora lui, alayhi salatu wasalam, ci ha fatto vedere come il musulmano come deve essere il sguardo del musulmano. Tanta gente oggi facendo peccati con cose con sguardo. Tanta gente oggi che ti vedi ti fa male. Come si dice? Ti fa un sguardo come un'arma, a'udhu billah. Un sguardo aggressivo, un sguardo pieno di odio, un sguardo pieno di discriminazione, un sguardo di come si dice, di svalutare gli altri, un sguardo di orgoglio. Tutti questi sono oggi tanti problemi nella vita quotidiana. Io non sto parlando di niente. Parlando di problemi che ci sono ogni giorno, vengano di queste cose. E pesa tanto questo. Oggi è vero che abbiamo i mezzi di comunicazione, abbiamo la tecnologia, però stiamo andando giù. Stiamo perdendo tutti questi valori, questa educazione. Per noi musulmani, noi li abbiamo nell'esempio e nel modello di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basta solo a seguire i fratelli, basta solo prima di tutto conoscere. Tanti noi, anche noi, ogni tanto dimentichiamo queste regole, questi principi, che sono principi di educazione. Quando uno, ad esempio, lavora nell'ambito di diplomazia, lo fanno imparare come si siede, come parla, come devono essere i suoi gesti, come deve essere il suo sguardo, tutte queste regole, no? Ecco, sono qua. Cosa abbiamo preso oggi? Tre qualità di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non parlo di più io, no? Non prendo gli altri, solo questo. Parlo nel sguardo di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suo sguardo era un sguardo che non fissava suo sguardo sulle cose. Era uno, alayhi salatu wassalam, che non seguiva gli altri con suo sguardo. Due, il suo sguardo era un sguardo di passaggio, non fissava mai suo sguardo. Tre qualità di Muhammad alayhi salatu wassalam. Non faccio tanto, non prendo tanto, c'è la settimana prossima ancora, prendiamo altre cose. Queste tre qualità del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La settimana scorsa abbiamo visto il sguardo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come era. Abbiamo visto quattro qualità nel sguardo del profeta alayhi assalatu wassalam. Abbiamo parlato tanto di questo argomento, che è molto importante, perché lo sguardo è considerato come un mezzo importante di comunicazione in sui due sensi. Può essere una comunicazione di pace, di rispetto, di amore, di umiltà, di educazione, ma può essere l'altro, un sguardo di guerra, un sguardo di invidia, un sguardo di minaccia, di orgoglio, di arroganza. Ci sono tutti questi. Può essere anche un sguardo haram, come abbiamo detto nella settimana scorsa, è considerato nell'Islam e si chiama zina al-ayn, l'adulterio dell'occhio. È un peccato enorme questo, trattato dell'Islam. E abbiamo visto Il Nabi alayhi salatu wassalam cosa aveva? Quattro qualità, come c'è qui nel hadith. Kana yaghuddu at-taraf sallallahu alayhi wasallam. Fala yatba'u nadaruhu al-ashya. Non seguiva col suo sguardo le cose. Diciamo le cose, le persone o altro. Il hadith qua è più generale. Perché non basta solo che uno non guarda gli altri, non segue gli altri con il suo sguardo. Può seguire anche le loro spese, ad esempio. Abbiamo parlato di questo. Uno che guarda il mangiare di altri, uno che guarda, non lo so, in che modo gli altri, uno guarda le case di altri, si chiama questo tutto nell'Islam, lo sguardo verso l'awrat. L'awrat. Mi ricordo che abbiamo studiato un libro che parla dell'educazione islamica di un grande sheikh morto, rahmatullahi ta'ala alayhi. Lui parlava tutto di questo tramite hadith del Nabi alayhi assalatu wassalam. Posso citare una di queste educazioni. Dice, quando tu vai di una casa di qualcuno, sei un ospite, l'ospite normalmente nell'Islam deve seguire il proprietario di casa dove lo mette. Non deve sedersi subito lui, perché non sa dove c'è l'aura, dove c'è forse sua famiglia passa, la sua moglie, o forse ha un posto, non vuole che gli altri lo guardano, non è preparato bene. Tutto questo è considerato nell'Islam, subhanallah ta'ala. Allora, l'educazione islamica, quando uno va, il problema è che tanti oggi non sanno niente di questo. Non sanno niente di questo. Uno entra a casa di qualcuno, comincia come lui, no, perché il tuo fratello, tu hai permesso. Ci sono regole dell'Islam. Proprio ci sono regole dell'Islam che gestiscano, sentite bene fratelli, torno un altro giorno su questo, che gestiscano la vita della famiglia stessa. Subhanallah. I figli, quando vogliono entrare a casa dei loro genitori, cosa devono fare? Devono chiedere il permesso o non devono chiedere il permesso? Tu, quando entri in casa tua, devi fare un segnale o non devi fare un segnale. Questo si chiama, io ho fatto un bahth su questo, adabul istidhani wal istinas fil Islam. Le regole dell'istidhan, di chiedere il permesso, dell'istinas, di annunciare il tuo arrivo, e questo tutto c'è nel Corano. Subhanallah, se non è importante, perché il Corano parla di questo? Importanti, fratelli. Tutti questi buoni educazioni sono importanti, ci sono nel Corano e li vediamo messi in pratica dove? Nella vita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora, la prima qualità, lui alayhi salatu wassalam la yatba'u nadarahu al-ashya. Non segue con il suo sguardo le cose, che può essere persone o altre cose. Kana jullu nadarihi al-mulahadha. La maggior parte del suo sguardo era un sguardo di passaggio, liscio, molto morbido, subhanallah, facile così, non fissava alayhi salatu wassalam. Questa è l'altra che vediamo, la terza. Fala yuhamliqu idha nadar. Nabi sallallahu alayhi wasallam, suo sguardo era un sguardo dolce, alayhi salatu wassalam. La yuhamliqu. ليس من الأخلاق المسلم الأخلاق النبوية uno che guarda con un sguardo fisso come un delle fucile, come un'arma o come non so cosa. Se uno ha questo difetto, cerca di correggerlo per seguire il suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siamo in tre adesso, l'ultima inshallah. ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. suo sguardo verso la terra era più del sguardo verso l'alto. Il Samà l'alto. E questo è anche una educazione del Nabi alayhi salam. Chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala che ci aiuti a perseguirlo, inshallah ta'ala. Chiediamo Allah ta'ala che ci aiuta prima di tutto per conoscerlo e per amarlo e per seguire i suoi passi, inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh tajiduhu ghafuran rahima wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.